di ritrovarsi da soli lungo la strada, in un'auto, in un bar, a volte in mezzo alla gente. Cerchi un amico, vorresti parlare dei tuoi problemi che vuoi affrontare, ma non riesci a capire quello che attorno accade, perché quel che fai col cuore, capito, non è, non è. Perché è così difficile dagli altri farti comprendere, e anche se non puoi evitare, non si può di ritrovarsi soli. Fermarsi a pensare quando si resta da soli, puoi apprezzare quello che hai, conoscere meglio chi sei, perché da te non puoi scappare, nasconderti non puoi. Se nessuno